Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 9 agosto, buongiorno a tutti e a tutti, in particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia-Romagna e della Dozza. E bentornati a Liberi Dentro, Eduradio TV, il nostro programma che va in onda su Radio Città Fugico, Teletricolore e Lepida. Io sono Antonella Cortese, qui con me c'è in co-conduzione Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che sarà con me, come ormai vi ho già detto, la settimana scorsa, e con Caterina, ovviamente, per tutto il mese di agosto. Ignazio, buondì. Buongiorno, buongiorno a te e a tutte quelle che ci ascoltano sulle nostre emittenti. E buon inizio settimana, perché cominciamo questa settimana calda tutti insieme, però parto subito con un ringraziamento doveroso a tutti quelli che ci hanno sostenuto sulla piattaforma Idea Ginger e vi annuncio che la settimana prossima cominceranno le ricompense. Quindi ora ci organizziamo un attimo, poi la prossima settimana vi diremo tutto. Intanto io passerei la parola a te, Ignazio, perché oggi di che cosa parliamo esattamente? Ma allora, questa settimana vorremmo dare un po' spazio a testi che ci arrivano dal carcere, ovviamente senza toccare nessun argomento sensibile, così siamo liberi di poter leggere tranquillamente, ma però l'intento è quello di mostrare come le persone che si trovano detenute e un periodo della loro vita, un periodo brutto, un periodo che speriamo il più breve possibile, ma è anche un periodo di elaborazione, di invenzione, di ideazione, di fantasia che serve a tutta la comunità. E allora vorrei iniziare oggi da una lettera che ci è arrivata da Luciano, che ha accettato la sfida che gli ho lanciato di scriverci cosa è per lui la parola scoperta. Ignazio, questa parola da dove parte? Dov'è la sua origine? Ma dunque, scoperta per Luciano è una cosa che parte dall'infanzia. Io ho qua il suo testo in mano, quindi devo chinarmi per leggere qualche riga. E allora lui dice: quando ero piccolo, mio nonno mi raccontava della guerra, mi leggeva l'Odissea, cosa che ha continuato mio padre, appassionato di storia, che mi insegnava a riconoscere le nazionalità dei miei tanti soldatini. Insieme guardavamo la TV e ricordo i film di guerra, i film per i ragazzi, Tarzan, eccetera, eccetera. Mi affascinavo e mi incantavo immaginando chissà quali avventure portavano. Quindi questo Luciano, che poi lo vedremo, ha veramente girato il mondo, inizia la sua avventura da casa, in casa con il nonno, la televisione e poi nei boschi, dove dice i miei nonni erano cacciatori esperti. E quando ho fatto 9 anni, il nonno mi ha iniziato alla caccia. Andavo con lui in giro per campagne e boschi a cacciare, raccogliere funghi, riconoscere gli animali, scoprire la vita della natura. Ecco, quindi una infanzia, ci racconta Luciano, come tempo di scoperte. Ma la scoperta è anche il viaggio, giusto? Sì. E qua Luciano, io non so se può essere messo nel Guinness dei primati, ma la lista dei paesi nei quali è viaggiato è infinita. Innanzitutto racconta quando ha iniziato a viaggiare per l'Italia, poi da ragazzo con la formula Interrail dice: ho visitato la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Olanda, l'Austria, la Germania, la Svizzera, e poi è andato anche tanto in America Latina. Ha fatto in Perù, Bolivia, Algeria, qua nel Nord Africa, è stato anche in Texas, Costa Rica, Venezuela, Brasile, e sempre interessa a scoprire, sentite cosa scrive qua, certo in paesi come il Perù ho visitato i luoghi turistici, storici, altre attrattive, ma a me interessava capire la cultura di questa gente, quelli che una volta si definivano i costumi. Allora, non solo il turismo così, ecco, per andare in spiaggia, ma per rendersi conto che ci sono popoli con costumi, usi diversi e sono degni di essere conosciuti, apprezzati e anche descritti. Quindi Luciano, possiamo dire qua, è proprio un viaggiatore insieme anche un antropologo. Esattamente, questa è la differenza tra il turista e il viaggiatore. Ignazio, il carcere è la fine del viaggio? E qua è la sorpresa che arriva alla fine della sua lettera. Intanto immagino che ti piaccia moltissimo, Antonella, perché anche tu sei una viaggiatrice, più che turista, direi, quindi vi ritrovate, vi ritrovate. Allora, lui dice, arrivando verso la fine della sua lettera, quando mi hanno arrestato, non entriamo nella sua storia, ognuno ha la sua storia, ha commesso degli sbagli, li riconosce e quindi adesso sta pagando per quello che per gli sbagli che ha fatto. Dice, quando mi hanno arrestato ho scoperto un altro mondo, un mondo che non fa per me, non fa per nessuno il carcere, dico io, nessuno è fatto per il carcere, non fa per me. E mi ha fatto rendere che fuori, nel mondo normale, potevo starci bene senza questo lato criminale. E poi dice, grazie a una volontaria, antropologa, medico, che durante il percorso carcerario ho avuto modo di incontrare e confrontarmi, sorpresa della mia conoscenza su tanti costumi, mi ha spinto a studiare, a far fruttare le mie tante esperienze, così mi sono iscritto all'università e ancora oggi posso dire come la mia vita abbia influenzato i miei studi, ma anche come gli studi hanno influenzato la mia vita. Mi sono reso conto di altre cose, ho rafforzato la mia convinzione dell'eguaglianza delle persone. Siamo tutti uguali, tutti connessi e veniamo tutti da un solo luogo. Allora guardate, straordinario, Luciano, ci insegna una cosa a tutti quanti, anzitutto che l'infanzia è scoperta, non sono bambinati, i bambini sono degli scopritori, sono i primi viaggiatori sono i bambini. Poi c'è il viaggio fisico per il mondo, i paesi e quindi anche lo stimolo a scoprire gli altri popoli, quello che ci fa fare ogni settimana Antonella con le sue scoperte di viaggio anche nel mondo animale. E infine il carcere, che è la cosa peggiore che ci possa capitare, e tuttavia una persona come Luciano e tanti come lui, hanno la possibilità di sfruttare questo tempo per una nuova scoperta che è anche interiore passa molto attraverso lo studio. Quindi un incoraggiamento a intraprendere un percorso di studio in carcere. Benissimo. Ignazio, che cosa vuoi lanciare? Quale brano vuoi lanciare e a chi lo vuoi dedicare? Allora, oggi partiamo con Saut al-Hurriya, e sarebbe l'inno, diciamo, della primavera araba, ormai di cui si celebra 10 anni, purtroppo diventata autunno e inverno, un brano celeberrimo, dall'Egitto viene, e che dice: le nostre armi sono i nostri sogni. E lo vorrei dedicare in modo particolare ovviamente a Luciano, alla sua famiglia, ai tuoi amici, a tutto il suo futuro e anche a un'altra persona che ci sta seguendo in questo momento dal carcere, che è Rosa. كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا أهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا Bentornati, rieccovi, siete sempre su Liberi Dentro e Radio e TV e dopo la canzone bellissima che abbiamo ascoltato, lanciata da Ignazio, passiamo su un altro argomento, l'Africa. C'è un bellissimo articolo di Alberto Negri che dice che l'Africa che ci sta di fronte come direbbe la storica tunisina Leila El Houssi, non ha pace. Non ne ha avuta certamente con la colonizzazione occidentale, cui sono seguiti i regimi e dittature, non ce l'ha oggi, è un decennio dalle primavere arabe, a cui faceva riferimento tra l'altro anche Ignazio poco fa. Anche la Tunisia delle rivolte dei Gelsomini, l'unica democrazia sopravvissuta a questa stagione di grandi speranze deluse, si sta purtroppo sgretolando. E certo in buona compagnia, purtroppo, perché basti ricordare la confinante Libia, dove dopo la caduta di Gheddafi di stabilità e progresso non se ne vedeva neppure l'ombra, di un'Algeria che soffre ancora alla fine di Bouteflika e l'uscita tortuosa da anni di piombo con migliaia e migliaia di morti, di un Egitto che al-Sisi tiene compresso in un regime repressivo autocratico e di un'intera regione, il Sahel, che sembra sfuggire a ogni tentativo di controllo interno e internazionale, e dove l'Italia sta cominciando a partecipare con la missione Takuba e una base militare in Niger. Ecco, tutto questo mi sembra che è venuto a complicare il quadro, l'effetto Covid. Eh sì, Ignazio, hai ragione, perché la pandemia da Covid ha assestato un colpo micidiale ad alcuni paesi, come Tunisia, Egitto, con il blocco del turismo ovviamente, e anche degli investimenti stranieri, e quindi si sono trovati a vivere ancora più isolati. Poi la massima preoccupazione europea, c'è anche da dire, e anche occidentale, è stato tentare accordi di sicurezza, soprattutto per limitare i flussi di profughi. Comunque, in fondo è stato fatto lo stesso anche in passato. Sulla scena, quando sono comparsi i jihadisti dell'ISIS, i paesi come la Tunisia li hanno forniti, tra virgolette, pescando tra le file dei disoccupati e dei disperati. Circa 7.000 reclute, infatti, furono, prelevate dal califfato. Insomma, la povertà è il serbatoio più facile a cui attinge il terrorismo. E pochi nel 2011 si sono occupati di cosa veramente significava per il Nord Africa il crollo di una Libia che dava lavoro a milioni di arabi della regione. Infatti centinaia di migliaia di egiziani e tunisini che facevano i pendolari nei cantieri del Reis libico si sono alla fine trovati senza lavoro. E in molti casi di emigrazione in realtà ne avevano già fatta molta, perché erano già stati in Italia, in Spagna, in Francia. E poi c'è anche il discorso delle rimesse, perché le rimesse dei migranti tenevano in piedi economie e famiglie in modo diretto, cioè significa che non c'erano aiuti internazionali che prendevano strade, ufficiali, ma c'erano rimesse dirette alle famiglie. Questo era molto importante, aiutava moltissimo. E adesso, allora, Antonella, come si sorreggono le famiglie tunisine senza quelle rimesse dei lavoratori emigrati? Esatto, adesso che per tenere in piedi le famiglie tunisine, algerine, marocchine, egiziane, sudanese, del sud del Sahel che abbiamo citato prima, ci sono i soldi dei migranti in Europa. E non è neanche un caso che quando la Tunisia ha cominciato a morire, a vacillare sotto i colpi appunto della variante Delta, i tunisini in Francia abbiano inviato aiuti e soldi alle ONG locali per aggirare uno Stato che non aiutava più di tanto. E per dirla con schiettezza, in Francia gli specialisti tunisini di terapia intensiva sono il doppio di quanti se ne trovino nella stessa Tunisia. Quindi Ignazio, aiutiamoli a casa loro, in realtà stavolta ci aiutano loro a casa nostra. In realtà in questo naufragio mediterraneo stanno sprofondando i migranti e interi paesi, cui chiediamo di frenare i flussi in realtà, mentre noi ci vacciniamo e ci organizziamo per il futuro. La democrazia comunque non sprofonda da sola, e questa secondo me è una vera verità. Ha bisogno di una spinta, e non piccola, e oltre che politica e istituzionale, infatti la crisi tunisiana è soprattutto economica. Il paese ha bisogno, per non fallire, di 7,2 miliardi di dollari, di cui 5,8 sarebbero già impegnati solo per ripagare i debiti accumulati, quindi c'è molto da fare. È anche molto pericoloso lo stallo delle trattative con il Fondo Monetario per ottenere un prestito di 4 miliardi di dollari, tra parentesi, condizionato a riforme che nessun governo tunisino negli ultimi anni è stato in realtà in grado di accettare. Bene, bene, bene, male, preoccupiamoci, però fermiamoci qui. Musica adesso, qualche cosa sì. Di italiano? Guarda, io ho scelto due cantanti che mi stanno molto a cuore, sono bravissimi, Pino Daniele e Franco Battiato, insieme a cantare Chiteno Mar, perché il mare è una ricchezza, ma spesso è diventato il luogo di morte per molte persone che hanno provato a cercare semplicemente un futuro migliore. Ascoltiamolo. chiteno ma rossai porta una croce cucciavo mare s'accoggi tutto chi duca succede poi sta lontano e ti fa sentire senza voce cucciavi un mare usai te una croce aver ascoltato questo brano bellissimo di Pino Daniele e Franco Battiato, passo la parola alla nostra Caterina Bombarda con l'intervista al nostro ospite, il dottor Antonio Molinaro, ispettore di Polizia Penitenziaria. A voi. Ciao a tutti, siamo qui nella casa circondariale di Bologna e oggi siamo insieme ad Antonio Molinaro per l'intervista per la pillola insieme ad Asso Città di Bologna per Liberi Dentro Durati. Sì, parleremo con appunto l'ispettore Antonio Molinaro del suo lavoro, del suo ruolo all'interno della Casa Circondariale di Bologna. Sarà un'intervista molto ricca che vi accompagnerà per diverse pillole per l'appunto costruite dalla Città di Bologna. Ascoltatela, è molto interessante. Via con la pillola. Dottor Molinaro, tradizionalmente si avverte il ruolo della polizia penitenziaria come mirata molto sulla custodia delle persone detenute e anche un po' nell'immaginario collettivo, pensiamo anche ai film, la filmografia, la cultura di massa, pensa alla gente come a colui che tiene in mano la chiave, che apre e chiude i cancelli quando la persona arriva oppure quando per fortuna è in uscita. Ma mi chiedo, è tutto qui il ruolo della penitenziaria o ha anche una sua funzione di rieducazione e risocializzazione delle persone detenute? Vero quello che sta dicendo, infatti pure io fuori trovo questo riscontro, molti a tutt'oggi non conoscono il nostro lavoro, pensano che appunto il nostro lavoro consiste e si limita soltanto ad aprire e chiudere i cancelli e molti non sanno nemmeno che siamo una forza di polizia al pari delle altre e diciamo che il nostro compito appunto è quello di mantenere innanzitutto l'ordine, la sicurezza e la legalità all'interno degli istituti penitenziari, ma come appunto lei diceva un compito molto importante che è assegnato proprio tra i compiti istituzionali della legge che istituisce il Corpo di Polizia Penitenziaria è quello di dare proprio alla Polizia Penitenziaria anche come compito quello di partecipare alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti. E questo diciamo è un aspetto che non si trova in nessuna forza di polizia, quindi in un certo senso ci contraddistingue da tutte le altre forze di polizia, perché e non è molto semplice questo, in quanto dobbiamo riuscire a coniugare gli aspetti appunto della sicurezza, della legalità, che sono tipici di una forza di polizia, ma poi anche ci sono demandati questi compiti che riguardano appunto la rieducazione e il recupero appunto delle persone condannate, in quanto la Costituzione appunto nell'articolo 27 nel comma terzo dice appunto che la pena deve tendere alla rieducazione delle persone condannate, e quindi la polizia penitenziaria fa proprio parte, è inserito in questo gruppo di lavoro per quanto riguarda proprio l'espletamento dell'osservazione delle persone ristrette, tant'è vero che appunto io gestisco appunto in prima persona questa attività sportiva del rugby, che attraverso cui si fa anche l'osservazione, insomma. E anche ovviamente la rieducazione tramite lo sport. Certo. Poi naturalmente tante altre attività. E quindi poi naturalmente i compiti sono tantissimi, ci sono delle specializzazioni tipo matricolista, oppure che ne so, abbiamo delle persone che invece lavorano nelle traduzioni dei detenuti, abbiamo anche dei servizi cinofili, servizi a cavallo per nelle colonie agricole, molti questo non lo sanno, quindi diciamo proprio per quello non ci limitiamo soltanto appunto ad aprire e chiudere i cancelli. E poi abbiamo dei compiti che riguardano anche insomma altri aspetti, quale l'ordine pubblico, anche la sicurezza, anche se diciamo lì sono un po' più marginali. Adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble, born to be wild, out in the jungle, and I don't wanna be somebody without your body. Too close for comfort, I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be your body. entrando un po' su questo aspetto che lei ha appena citato della sicurezza, ci sono notizie che ogni tanto colpiscono la nostra attenzione, mi riferisco in particolare a notizie di cronaca e a fatti che accadono nelle carceri, in particolare ultimamente a Napoli, al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Qui chiaramente non possiamo fare un commento alle notizie, però quello che io le chiedo è se c'è consapevolezza tra la polizia penitenziaria dei risvolti anche negativi sul vostro lavoro dopo fatti di questo tipo raccontati e amplificati dai media. Allora, sicuramente quando ci sono notizie del genere appunto ci lasciano anche a noi un po' sconfortati, però naturalmente poi è ovvio che chi commette dei reati deve essere perquisito, perseguito dalla legge, insomma, come avviene per tutte le persone, tutti siamo sottoposti alla legge, quindi sicuramente non devono essere tollerati abusi e quant'altro. Quindi è giusto che se delle persone o che siano appartenenti alle forze di polizia o dei comuni cittadini o dei detenuti che abbiano commesso appunto dei reati, appunto devono pagare le conseguenze, perché tutti siamo sottoposti alla legge e quindi bisogna poi accertare tramite il processo, insomma, verificare le responsabilità di ognuno. E poi naturalmente nell'ordinamento penitenziario e nella legge ci sono degli strumenti già per poter affrontare varie situazioni, quale l'uso della forza fisica oppure la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi. E l'importante è non andare, diciamo, oltre, poi superare questi limiti. Spesso è vero che ci troviamo in delle situazioni molto difficili e complicate in cui bisogna prendere delle decisioni in poco tempo e quindi non sempre è facile, insomma, cioè bisognerebbe trovarsi in quelle situazioni per capire effettivamente poi come comportarsi, cioè un conto poi la teoria, un conto poi invece passare. E avete appena ascoltato l'ispettore Antonio Molinaro della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Ci saranno altre pillole a seguire a questa, perché è stata per appunto un'intervista molto ricca. Se avete dubbi, domande, scriveteci in redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Romolo 2, 40 136 Bologna per ogni richiesta scritta. E non esitate anche a contattarci sui social per qualsiasi ulteriore richiesta. Alla prossima. E anche oggi la prima parte della nostra trasmissione termina qui. Ma non cambiate canale, perché tra pochissimo ci sarà la rubrica Migrazione, Vita in Movimento, con Marwa Mahmoud. E vi ricordiamo che Liberi Dentro va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Città Fuggico, Lapida TV e Teletricolore. Mentre le rubriche Oggi parliamo di saranno trasmesse anche nel weekend. Quindi un caro saluto a tutti, a domani da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco ed Enea Flacco. Ciao! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.